nel vivo della nostra serata. Vi ringrazio di essere qui con noi. La Biblioteca Provinciale Italiana organizza settimanalmente degli incontri con autori e autrici nell'ambito di varie tematiche. Ecco, creiamo delle occasioni di incontro per conoscere e approfondire delle tematiche come quella di questa sera, che è sicuramente molto attuale, molto utile da approfondire, con l'aiuto dell'autore, appunto, di Giuseppe, che con noi saluto e ringrazio, e l'accompagna in questa serata la giornalista Sandra Bortolini, che conoscete, è molto noto della nostra televisione, che ci aiuta, ecco, ci aiuta in questa nostra serata. Abbiamo pensato, e ringraziamo appunto Giuseppe Maiolo di averci fornito questa occasione, di avercela suggerita, perché la biblioteca in questo periodo si sta appunto misurando anche con questi temi. La settimana scorsa abbiamo così affrontato il tema del bullismo, del ciberbullismo, questa volta appunto parliamo dell'educazione dei figli di gare sicuri, il titolo appunto del libro Genitori 2.0, e nei prossimi giorni, precisamente il 31 di maggio, affronteremo un'altra tematica legata sempre all'adolescenza, ai ragazzi e all'educazione, ed è in particolare dedicato alla presentazione del libro Mio figlio in rosa, di segno maschio o femmina, io mi sento lì, insomma. Quindi c'è questa tematica dei bambini colorati che sta prendendo piede, e forse è il caso di cominciare anche ad affrontarla con una letteratura e con un confronto con esperti che possono darci dei consigli e dei suggerimenti. Non mi dilungo altro, i libri di Giuseppe Maiolo sono in biblioteca, è possibile consultarli e prenderli in prestito. Abbiamo creato una, come nostra consuetudine, una bibliografia, una vetrina tematica. Lascio la parola ai nostri ospiti e vi ringrazio tutti di essere qui con noi, invitandovi a venire a trovarci anche in biblioteca, che siamo per noi di sotto. Grazie. Buonasera. Io sono più che un ex voto noto una tardiva digitale, seguendo quello che è il linguaggio di cui parliamo stasera, nonché una ragazzina del secolo scorso, come tanti di voi, quindi insomma non siamo proprio così decontestualizzati rispetto all'argomento della generazione 2.0. Veramente scherzo. Buonasera, io mi complimento per questa scelta che ha fatto la sede di Centro Trevi di fare questa serie di incontri su questi argomenti, che sono veramente molto importanti, molto interessanti, lo dico anche dal mio punto di vista della comunicazione di giornalista. E ho il piacere di presentarvi Giuseppe Maiolo, che è uno psicologo, psicanalista junghiano, specifichiamo, e è un docente all'Università di Trento ed è anche un giornalista pubblicista, un valido collega che collabora con l'Alto Adige, con il giornale di Brescia, e anche con testate e anche con i programmi della RAI nazionale, in particolare quelli dedicati alla famiglia. E è molto importante anche appunto che sia giornalista, perché così riesce a comunicare bene il suo sapere, comunicarlo nel modo giusto, a fare arrivare il messaggio alla società, quindi non soltanto ai suoi pazienti. Ha scritto molti libri, questa sera ci occupiamo di questo libro che si intitola Genitori 2.0, che come sapete sono i nativi digitali, e il sottotitolo è Educare i figli a navigare sicuri, perché ormai questi nativi digitali, detti anche pollicino, io ho imparato da Maiolo, che è venuto a fare un corso di formazione anche da noi, perché si occupa di formazione di insegnanti e anche di come se ci collaboratori sociosanitari, insomma. Quindi è venuto anche giornalisti e ci ha insegnato e ci ha aperto tante porte. E sta dicendo, per me Policina era quello delle favole, punta e basta, quello che andava per il mondo, era piccolino, si infilava dappertutto, finiva perfino nella pancia di un lupo, però tornava sano e salvo a casa. Allora, questi policini si chiamano policini perché usano il pollice velocemente, come noi non riusciamo, cioè veramente, addirittura hanno subito, secondo me, una mutazione genetica, fisica. E, però nello stesso tempo potrebbero essere anche dei policini che, finendo nella pancia del lupo, non tornano casa forse. e tanti genitori, adulti, insegnanti, nonni, cominciano a interrogarsi su questi loro bambini, ragazzini, giovani di casa che sono sempre connessi e che ormai i più sensibili, i più attenti, si accorgono che vivono due realtà, cioè la realtà quella comune vissuta con la scuola, con la famiglia, con gli amici fisici che ancora hanno perché sono costretti ad avere la sua scuola, ed una realtà digitale. Vorrebbero gli adulti, si pongono i problemi, vorrebbero cominciare a capire, cercano di entrare ma sono spesso respinti. Come fare a bucare questa bolla in cui si chiudono? Come fare anche ad acquisire gli strumenti digitali, tecnologici, perché un adulto possa controllare anche quello che accade e nello stesso tempo però sa che non ha la conoscenza per farlo. Ci sono addirittura dei programmi per bambini, per adolescenti, dove bisogna conoscere segni, linguaggi, cioè dove un adulto proprio non riesce a entrare. Allora, tutto questo ha pensato il professor Maiolo, che ha scritto questo libro, che è praticamente una guida, un supporto che ci insegna come capire e come agire e soprattutto come si fa anche a imparare questo linguaggio. C'è addirittura alla fine un glossario dove spiega, io l'ho guardato con grande interesse perché sentivo parlare di, non so, di varie, e poi non sapevo neanche cosa fossero, anche se ormai mio figlio è grande, è grosso, c'è 30 anni, però insomma, io gli chiedevo nel silenzio della mia cameretta che cosa volessero dire tutta una serie di termini, e quindi non è interessante, so che noi tutti dobbiamo chiudere questo campo. Adesso do la parola, scusate se mi sono dilungata, mi è tornata la voce, quindi ne approfitto. Grazie, ci spieghi la necessità di quale idea questo tipo. Ah sì, tanto ti ringrazio per quello che mi hai detto, per le parole che, con cui hai introdotto questo tema, che appunto vediamo un po' di affrontare insieme. Non vorrei fare una lezione cattedratica perché appunto non voglio insegnare niente a nessuno, anche se è venuta fuori una guida o una specie di guida, grazie anche alla dottoressa Trevisan e alla biblioteca per l'ospitalità. Io ritengo che sia un tema effettivamente importante questo, che richiede con urgenza la necessità di affrontare questi temi, soprattutto in casa, con gli adulti, i genitori. Perché? Perché effettivamente ho la sensazione che siamo un po' impreparati, in quanto siamo finiti dentro, ma dico finiti perché non ce ne stiamo rendendo. Siamo finiti dentro una rivoluzione culturale di cui solo alle volte, forse per rendercene conto, dobbiamo fermarci. Per fermarci e capire che nel giro di pochissimo tempo, perché è poco il tempo, io dico è il tempo di questo aggeggio, che si chiama smartphone, e che solo 10 anni fa non c'era. Da 10 anni a questa parte sono cambiate. Sono cambiate le relazioni, sono cambiati i modi di comportarci, di vivere, di agire, di interagire, no? Perché tutto adesso passa attraverso questo schermo, no? Al punto tale che la nostra posizione sembra un po' tornata indietro, no? Andiamo tutti chini su questo display a guardare e non ci guardiamo più in faccia. Questa è una delle cose, tra l'altro, che sta generando un certo allarme, non ancora in Italia, anche per gli adulti, sì, assolutamente. E infatti il libro è Genitori 2.0, perché è indirizzato agli adulti che, secondo me, dovrebbero fare questo sforzo, no? Certo, siamo tutti tardivi digitali, io ancora più di te, ma lo sforzo è proprio questo, di recuperare in fretta quella digitalità che non è data. Scrivere con i pollici, come appunto ci dicevi, non è una cosa per noi. Noi siamo indicini, siamo indicini, no? I pollicini invece hanno un altro. altro modo di operare e anche un altro circuito cerebrale, perché le neuroscienze ci stanno dicendo proprio questo, che i nativi digitali, a differenza dei tardivi digitali, che saremmo appunto tutti quelli che sono del secolo scorso, perché i nativi digitali sono quelli che sono nati alla fine del secolo scorso, ma soprattutto quelli da 2000 in poi. Quindi io qui, così, non voglio offendere nessuno, ma non vedo un nativo digitale, vedo tutti appunto tardivi, siamo tutti nella stessa barca. E allora il problema è proprio quello di dover recuperare in fretta, non dico la pollicinità, però recuperare in fretta quello che è conoscere appunto questo mondo per poter aiutare i pollicini che, come hai detto bene tu prima, si possono perdere, come nella favola, nella fiaba, con la fiaba si possono perdere, e questo è il motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro e a cercare in questi 10 anni, perché lo devo dire, sono 10 anni per esempio che io con il gruppo del germoglio me ne sto occupando, e 10 anni fa era nel 2007 proprio, avevamo fatto partire una prima mostra che si intitolava Internet sicuro, che ha girato e continua a girare in tutta la provincia di Bolzano, nelle scuole, proprio su questi temi. Quindi sono una decina d'anni che ci sembrava il momento appunto del 2007, quando ancora a livello europeo non si parlava per esempio di internet sicuro, di Safe Internet. Pensate che il Safe Internet Day, che è la giornata europea che dovrebbe farci riflettere su quella che è la sicurezza in internet, è iniziata nel 2012. Quindi voglio dire, è poco tempo che stiamo parlando di queste cose, però è tanto il tempo se andiamo a vedere, per esempio, tutti quelli che sono i rischi e i pericoli che i nuovi, i nativi digitali stanno correndo. Se andiamo a vedere le cronache, abbiamo una serie infinita di fatti, di eventi che ci dicono che c'è un grande pericolo che dobbiamo affrontare. E questa è la rivoluzione che porta a cose positive, ovviamente positive, perché né io né te, io credo, ma non, nessuno di noi si sogna più di non avere questo strumento, ma con cui ci facciamo tutto. Non possiamo immaginarci di non uscire al mattino con questo in tasca. Se usciamo senza questo, torniamo indietro. Quindi questo vuol dire che è uno strumento super necessario, però il problema è come lo si utilizza. Ecco, questo è il senso un po' del lavoro, del libro indirizzato agli adulti, ai genitori. Perché? Perché secondo me in questo momento noi stiamo arrancando. I tardivi digitali stanno arrancando per farsi una cultura digitale, e i bambini e gli adolescenti che stanno che crescono, che nascono con questo strumento, perché guardate che è la prima cosa che un bambino vede venendo al mondo, in sala parto, non le madri, perché ancora non hanno, pur essendo multitasking delle donne, ma non c'è ancora lì, non c'è, no. Però c'è il papà di solito che sta lì, e la prima cosa che fa vedere al bambino è questo. Non vedono neanche il viso del papà, ma vedono lo smartphone. Quindi com'è possibile non dover fare i conti con questo strumento? Com'è possibile non prenderlo in considerazione come uno strumento vitale? Questo è il senso. Ecco, quindi il senso è quello di, in questo libro, darci una capacità di capire meglio, di usarlo meglio e quindi di farne un uso positivo. Ma spesso gli adulti cercano questa strada, che troverai delle risposte, che troveranno nel tuo libro, perché vogliono rapportarsi con i figli che sono sempre connessi. E finalmente, dico io, perché in questi anni le mamme, aspettarsi che i bambini uscissero con la maglia di lana o non camminassero sul filo di un muretto o che mangiassero a sufficienza, ma mai si siano preoccupati di vedere il figlio per delle ore. Una volta con i videogiochi, la televisione, adesso con i videogiochi è tutto sul telefono. Io mi ricordo quando mio figlio era piccolo, la mia ossessione era quella di non guardasse troppo la televisione. E siccome stava spesso con le babysitter, mentre io lavoravo con la babysitter, lavoravo, la mia preoccupazione era un'ora al giorno di cartoni animati, perché se no sono cose devastanti sul suo intelletto. Cioè, mi sembra veramente che parliamo di preistoria. Quindi, come si fa? C'è ancora possibilità? È troppo tardi? Come si fa con bambini che già hanno, ragazzini che hanno 11, 12, 13 anni già da 5 anni, perché si parla che ormai da 7 anni e mezzo un bambino in Italia prende mal. Come si fa a non perderli? È una grossa domanda questa che tu fai, perché effettivamente se ci mettiamo ad agire quando abbiamo un ragazzino, una ragazzina che sono in età adolescenziale, io direi che siamo già un po' in ritardo. Sì, perché hanno acquisito già una grande competenza, già i bambini alla primaria, ve lo dico perché sto andando in giro per le scuole costantemente, faccio interventi ambulatori con i bambini della primaria insieme con gli altri colleghi del germoglio, e troviamo sempre bambini quarta e quinta elementare che sanno molto bene come si usano questi strumenti, che navigano tranquillamente. Non ti interrompo, è solo un inciso. Ci sono delle vignette bellissime. Una di queste vignette, poi non lo stai dicendo, praticamente io faccio il faccio il proiettore. Allora c'è questa vignetta, la mamma che aveva i piatti, con del miule, se la mamma presa dalla fatica, magari è finita male dal lavoro, che aveva i piatti, il figliolino con lo sbatta il forno in mano, che dice mamma, dialogo con la mamma, mamma, sai che ho piacciato la foto? Ha piacciato la foto che ha postato la Vale e gliel'ho lovata, poi l'ho pennata e lei mi ha risposto che l'aveva stampata, e si vede il soffio della madre. come si fa adesso? Allora lasciamo andare gli adolescenti e ci occupiamo dei bambini. Dobbiamo senz'altro. E cosa si fa? Si pongono, come si diceva una volta, come c'è una buona pedagogia, e dirgli dei no, non so come si fa. Sì, cioè voglio dire, anche. Non regalare il telefonino, non lo so. Questa è una grossa questione, no? Quella di dire non ti do il telefonino. Non ti do fino a 13-14 anni, molte volte mi capita incontrando i genitori, di sentire i genitori che dicono, io ho un figlio, fino a che non ha 14 anni non do il cellulare. Io dico, non può fare quello che vuole, che ci sia una. Però quel ragazzino, quella ragazzina che ha 12-13 anni ancora non ha un suo cellulare, un suo smartphone, è fuori dal contesto del gruppo, e dove, ricordiamoci, in quell'età il gruppo conta moltissimo, è basilare, è fondamentale. Se un ragazzino non può identificarsi, un adolescente non può identificarsi con quelli del gruppo, e voi lo sapete, si identifica con la maglia, la felpa, le scarpe, il pantalone che deve essere portato in un certo modo. Il conformismo, la sicurezza, la sicurezza. Cioè, e quindi si identifica anche con l'ultimo modello, purtroppo, è vero, però si identifica anche con l'ultimo modello di smartphone. Questo è già vecchio, no? Allora, è chiaro che lì facciamo fatica, però delle regole io credo sia giusto metterle. Tipo per esempio come lo si usa, non è possibile dire, cioè dobbiamo partire da un fatto, che questo strumento, ok, che è il capo stipite di tutti gli altri strumenti, il tablet, eccetera, è, lo dico spesso perché a me sembra che la metafora sia giusta, è una Ferrari. Dare in mano un telefonino come questo a un bambino, un ragazzino, vuol dire mettergli in mano una Ferrari. Invece della bicicletta. Invece della bicicletta, esattamente. E sapendo però che noi non daremo mai in mano una Ferrari a una persona che non sa guidare, non gli daremo neanche in mano una 500 se non quella consentita dalla legge con determinate caratteristiche, e invece mettiamo in mano uno strumento super potente con il quale può fare tutto e noi non siamo in grado di controllare quello che lui fa. Questo è il punto, no? Allora è chiaro che dobbiamo agire, secondo me, per andare dando prima delle regole molto precise. Se non le abbiamo date, le dobbiamo dare, però il rischio è che quando ci mettiamo a 12 anni a dire no, adesso le regole te le metto, abbiamo sicuramente molta, quantomeno molta più fatica da fare. Io ho trovato molto disdicativo anche che mettano in classe il portarcelo. Perché c'era stata tutta una discussione, poi è stata introdotta, se non ricordo bene come è stato il percorso, comunque c'era un divieto. Sì, il percorso è stato questo, che adesso il governo ovviamente se cade, non si sa cosa stia succedendo, però la ministra, sì, ma senza entrare in questa particolarità, la ministra Fedeli ha detto a gennaio che il gruppo dei suoi collaboratori che hanno studiato il problema del telefonino a scuola avrebbe rivisto questo divieto, cioè nella scuola il telefono dovrebbe poter essere usato, perché ormai il telefonino, lo smartphone, perché ormai fa parte degli strumenti come un libro. Questo è quello che lei ha detto. Io ti devo dire che l'ho detto, l'ho scritto anche, ma a me la cosa non dispiace. Durante la lezione che lo stiamo dicendo? No, questo è il policiare, c'è il policiare? No, adesso è lo prima, policiare. No, cioè io dico, però con delle regole, con dei limiti che gli insegnanti sappiano porre, che la scuola sappia dare, ma che sappia darli ai ragazzi, ma anche ai genitori, perché questo è l'altro discorso. Quando i ragazzini vanno a scuola, i bambini della scuola primaria, si portano appresso il cellulare e i genitori chiamano durante le lezioni per sapere se sono a scuola, questa non è una cosa nuova, la sappiamo. Dobbiamo partire. Certo. Allora, regole, secondo me, servono. Serve però nel momento in cui il ministro, allora era della pubblica istruzione, il ministro adesso dell'istruzione dice il telefono si può riportare in classe, ma io credo che sia importante anche che dica che se è diventato uno strumento come un libro di testo, ci siano anche quelli, e io qui me la prendo un po' con la scuola, se volete, ci siano anche gli insegnanti che sappiano usare e che insegni. O no? Questo è il punto. Ci devono essere degli adulti, che siano i genitori a casa, degli insegnanti, degli educatori, che sappiano dire questo si usa così, così, così. Con questo si possono fare delle cose, non se ne possono fare delle altre, si può usare in questo momento, non si può usare in un altro. Queste sono cose che vanno fatte con gente. Non possiamo portarci i bambini all'ospedale e lasciarli che telefonino o che smanettino con i bambini. Anche quella che abbiamo avuto occasione di considerare con questa informazione, che questo nuovo tipo, chiamiamolo, di violenza nei confronti dei bambini, che è la disattenzione, è la trascuratezza. Questo è un grosso tema, che tra l'altro tu lo citi, ne abbiamo accennato un po' anche al convegno che era dell'ordine ciclisti, ne abbiamo fatto un convegno come Germoglio, Associazione della Strada, proprio in autunno, proprio sulla trascuratezza, dove l'accento che abbiamo posto noi è sul fatto che la trascuratezza nelle relazioni familiari sembra in aumento. I dati statistici ce lo dicono, che è una delle forme di violenza sui minori che sta aumentando. E trascuratezza la dobbiamo intendere molto bene, non si tratta di immaginarsi solo l'adulto genitore che sia, che si dimentica il figlio nella macchina al sole a 40 gradi sotto il sole. Non è solo questo, questa è la punta dell'arco. C'è una trascuratezza quotidiana che è data dal fatto che non ascolto, che non sento, che non vedo. Questa trascuratezza è pericolosa. Prima dicevo che c'è un allarme in Europa che noi non abbiamo ancora colto in Italia, che in tutta Europa, ecco, con tutti i termini che noi abbiamo, adesso dobbiamo per forza dire, usare i termini inglesi. Questo termine che sta preoccupando si chiama fapping. Il fapping è questa attenzione che stiamo mettendo a tutti i dispositivi che hanno un display, vale a dire noi se guardiamo, se ci guardiamo in faccia camminando, in sala d'attesa, aspettando l'autobus, non c'è uno che si guarda più attorno. C'è anche il contatto visivo magari. Appunto, c'è anche il contatto visivo. Non ci stiamo più guardando in faccia, negli occhi. Questo è il fatto. Non entrare più in una relazione diretta con gli occhi. Quindi le interazioni si sono fortemente modificate e appunto soprattutto in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, stanno dicendo c'è un allarme, che è dato proprio da questo fatto che noi non entriamo più in relazione. Nel City londinese hanno messo, per un altro motivo ma è inerente a questo, hanno foderato i pali della luce con della gomma piuma. E certo, perché i manager non fanno altro che dover controllare il loro cellulare, il loro smartphone o il tablet e sbattono. È capitato anche a me, devo dire che mentre sto facendo una cosa cammino e la vado sopra. Ma ci sono state anche delle scelte, certo, ma questa è davvero una cosa che interessa a tutti, no? Che sta interessando tutti. Giuliana, che è molto attenta a queste cose occupandosi di bambini, eccetera, lei dice si guardano in faccia, ci guardiamo negli occhi solo con gli animali domestici, i cani e i gatti ci guardano, i bambini ormai sono presi dai loro giochi. Dobbiamo imparare dai cani che comunicano. Dobbiamo imparare. Quindi questo è un dato importante, secondo me, da tenere presente, altrimenti rischiamo davvero di trasmettere o non trasmettere più relazioni. Le relazioni, attenzione, ascolto, osservazione, quindi tutto quello che serve per la relazione sta venendo meno. Del resto, se gli adulti si vantano di avere un sacco di amici su Facebook, però quelle stesse persone si incontrano per strada, non si salutano nemmeno, bisogna chiedersi qualcosa sui rapporti virtuali. Allora, intanto pensate a qualche domanda. Mentre pensate a qualche domanda, io vi leggo alcuni numeri che ho trovato molto interessanti e che fissano anche quello di cui stiamo parlando, così in teoria. In Italia il 75% delle persone tra i 18 e i 34 anni usano i social media. I social hanno superato il porno come attività. Il 71% delle persone che utilizzano i social hanno stretto amicizia su un social, quindi non a scuola, in giro, oppure non so, fermandosi, scambiando la parola con qualcuno in un parco. Se Facebook fosse un paese sarebbe al terzo posto, dopo Cina e India. E poi, vabbè, se non volete tediarvi, però in Italia il 58% della popolazione che guarda la televisione guarda più in rete che in video. E Facebook, questo è interessante, secondo me, lasciamo un attimo l'adolescenza, e ha il segmento di Facebook in crescita è quello delle donne tra i 55 e i 65 anni, e secondo me questo dato è uguale solitudine. Perché no, si può leggere anche in questo senso, certo. Comunque, insomma, qualche dato per dirvi l'importanza che ha ormai nella nostra vita tutta la rete, tutti i dispositivi, certo, che ci mettono in comunicazione con col mondo, che è bellissimo, lo trovo entusiasmante, però insomma bisogna anche essere un po'. Ma anche in questo mondo lo dobbiamo trovare entusiasmante. Io sono un appassionato. Questo del social ha superato un po' sì, di attività. Sì, no? Ma sì, guarda, ci sono studi anche qui. Ci sono studi anche qui molto interessanti. Pensate che sui social si sta facendo una grande discussione, un grande dibattito, si studiano anche i comportamenti che, certo, abbiamo bisogno di più tempo perché siamo appena entrati dentro. 10 anni non sono niente, e 10 anni da quando abbiamo cominciato a studiare questo fenomeno ne sono passati ancora meno. Ma per esempio, per quanto riguarda le relazioni che possono avviarsi online, per esempio su Facebook, dove ci sono ormai solo gli adulti, non immaginatevi di trovare su Facebook i ragazzini. Non ci sono, i ragazzini sono su altri social, a partire da Instagram, Ipernoto, YouTube, eccetera. Però studi che sono stati fatti dimostrano che, per esempio, le relazioni che possono nascere su un social, quindi virtuali, ci conosciamo online, ma alle volte hanno più, come dire, successo. Si sviluppano poi nella realtà con maggiore successo, sembra, che dicano alcune ricerche, che non le relazioni normali. Sono matrimoni felicissimi, ma per dire che dobbiamo forse cominciare ad apprezzare anche le cose positive che questi strumenti ci offrono. Assolutamente, non potrei dire senza. Certo. Tra le social che sono obiettrici di coscienza, però non potrei dire senza WhatsApp. Anche quello, WhatsApp è un social. Allora, avete pensato a qualche domanda? Io volevo fare un'osservazione, no? Riguardo anche noi adulti che utilizziamo i social, WhatsApp, e a volte, siccome siamo anche noi da poco dentro questo mondo, io anche ho un figlio adolescente che non è proprio dipendente, però io a volte mi sento quasi come un adolescente. Cioè, il fatto di guardare, mi sento come ha detto questo, cioè poi vedo lui come te. È chiaro che uno dovrebbe avere una maturità diversa, dovrebbe. Però dico, alla fine anche per noi è una novità. E anche al di là che dici ma no, non guardo così, però poi crea anche una sorta di dipendenza, cioè è una cosa sottile, no? E quindi io da una parte capisco gli adolescenti, perché a volte sei veramente tagliato fuori. A me è successo, mi si è rotto il telefono, quindi non avevo più WhatsApp, sono tornato al mio preistorico. Mi sono presentata a compleanno io e mio figlio, gli unici, perché poi mio padre è stato sposato e allora ho detto su WhatsApp e non avendo più punto di WhatsApp sul suo compleanno, non mi hanno avvisato, nessuno ti va a telefonare. Sì, non ti si telefona. No, quindi nel senso, anche noi adulti. È verissimo. Anche noi adulti stiamo subendo il fascino, perché c'è il fascino di questa tecnologia. No? E in parte, logicamente, affascinati stiamo anche diventando un po' adolescenti, no? Gli adolescenti hanno questo bisogno di scoprire il mondo, di cercare di dare un senso a quello che accade, e quindi provano, tentano, esplorano, eccetera, e noi facciamo adesso. Ma è normale questo. L'unica cosa che forse dovremmo fare attenzione a non a trasformarci totalmente in adolescenti, no? Cioè, crescendo, sviluppandoci, noi perdiamo sicuramente una parte dell'infanzia, una parte del nostro bambino interno, però non dovremmo mai perdere tutto, dovremmo portarcelo sempre, e meglio portarcelo fino alla vecchiaia, fino alla morte, una parte del bambino. Certo, in certi momenti lo usiamo di più, lo mettiamo in gioco di più, in certi altri meno. Anche l'adolescente fa parte di noi, delle nostre esperienze. Eppur essendo stata una della nostra adolescenza molto diversa da quella che, ecco, quella dei nativi digitali, però i desideri, il bisogno di scoprire, il mettersi alla prova, fanno parte ugualmente della nostra esperienza come quella dei ragazzi di oggi. È solo che noi dovremmo poter contenere la nostra parte adulta, anche quella che ci permette di dare dei limiti a noi stessi. E qui dico una cosa molto, ma molto importante. Per esempio, non possiamo dire ad un ragazzino, a una ragazzina, per arginare un grosso fenomeno estremamente pericoloso come quello del sexting, sexting è anche una parola nuova che sta entrando e che vuol dire mandare messaggi e foto e video e materiale, insomma, scabroso, molto, molto violento, perché una cosa è mandare una foto pornografica a un adulto, un'altra cosa è inviarla, farla circolare tra i minori. Questo sta generando un grosso problema, che è il problema del sexting, che è collegato agli atti del cyberbullismo. Ma io non posso arginare questo fenomeno dicendo: guarda che tu non devi mandare una foto. Se io come adulto sono il primo che fa questa cosa, e guardate che sono appunto attivo, attivissimo su Facebook e su altri social, e quindi vedo, appunto, non controllo, ma guardo quello che sono i comportamenti. A lunedì mattina tutti postano le foto fatte in montagna, al mare, in campagna, con i bambini, in costume da bagno. Questo è estremamente pericoloso, lo dobbiamo dire. E lo dico e continuo a ripeterlo, a scriverlo dappertutto, perché questo è un fenomeno che si sta diffondendo. Perché è pericoloso, tu dici? È pericoloso perché le foto dei bambini, soprattutto, sono molto appetibili da tutto quello che è il mercato della pedopornografia. Non offre un catalogo, è un casting, proprio così. E quindi possono essere prese quelle foto che noi consideriamo innocenti, che abbiamo messo, penso io, del bambino sulla spiaggia, della bambina, del ragazzino, e poi vengono utilizzate, ovviamente, prese da social, da Facebook, da quello che volete, e rimesse in circolo, modificate e vendute per creare. Bisogna sapere due cose: che ci sono molti predatori, e la seconda, che tutto quello che va in circolo non si riuscirà. Esatto. E poi probabilmente bisogna anche avere una consapevolezza molto chiara di quello che è il pubblico e il privato. Nel momento in cui io lunedì mattina pubblico, no, io non lo faccio, ma molti lo fanno, la torta che ieri ha fatto la mia mamma, la chiacchierata che abbiamo fatto il pomeriggio, il gioco a pari, nel momento in cui io pubblico questo, devo sapere che questo poi, come diceva Sandra, diventa pubblico. Ma allora che cosa devo fare? Devo distinguere quello che è la mia famiglia, il mio intimo, il mio privato, la mia cucina, la mia domenica, la domenica con la mia famiglia, da quello che è. E questo è a questa autodisciplina noi dobbiamo condurci esattamente con quei paletti di cui parlavate prima, quando si tratta di scuola quando si tratta di dire da parte di un insegnante quando c'è lezione non puoi telefonare. Durante le ore di interrogazione, quando io interrogo il tuo compagno, tu devi ascoltare, tu non puoi rispondere a te. Cioè, quei paletti che vengono imposti a scuola devono essere imposti a se stessi in ambiti che devono essere individuati, quali sono i nostri ambiti privati, quali sono i nostri ambiti invece che sono poi destinati a rimanere eternamente pubblici, come diceva Sandra, no? E a tutto questo come ci si può? Ci sono persone che hanno questa consapevolezza, molte invece si fanno affascinare, si fanno dallo strumento. E io credo che incontri come questo, con colloqui di questo genere, dovrebbero essere molto frequenti, programmati. Bisognerebbe che istituzioni, io non so come dire, molte associazioni che si occupano di formazione, che si occupano di rapporti, che si occupano di socialità, dovrebbero includere nei loro programmi questo problema che è non attuale, è urgentissimo. Io credo che ci sia anche una sorta di imitazione, cioè quelli social, questa diffusione, l'informazione, Instagram, eccetera, è diventata per tutti, diciamo, in qualsiasi strato sociale, un'imitazione dei modelli che ci sono, per cui se Fedez e la Chiara Ferragni, o che so io, la Belen o altri, fotografano qualsiasi momento della loro vita, perfino, cioè quel bambino è figlio di questa coppia famosa, c'è un'imitazione, come dice, nel piccolo, no? Io non guardo, però anch'io, il mio bambino, siamo andati lì, cioè a un certo punto un po' imploderà questa moda, insomma, definirla. Su questo bisogna riflettere, certo. Quali sono i rischi di tutto questo? A partire dal fatto che dobbiamo essere consapevoli di quello che questi strumenti sono molto potenti. Dobbiamo avere questa idea che sono molto potenti nel bene e anche nel male. Allora, per educare quello che tu dicevi, dobbiamo prima autoeducarci, no? Essere consapevoli, per esempio, che ci sono gli strumenti, voglio dire, quello del pubblico e privato di cui tu parli, vuol dire sapere bene che andare sui social, ogni social prevede la privacy e prevede il modo con cui tu puoi gestire la tua privacy. Devi sapere che puoi entrare dentro in quella parte del social e scegliere come vuoi gestire la tua privacy. Su questo, devo dire, in Italia siamo ignoranti. Questo è. Allora, questo vuol dire effettivamente attrezzarsi, vuol dire mettersi a studiare, vuol dire, ecco, vedere, e qui non lo faccio per pubblicità, ma per l'associazione, il libro, ecco, abbiamo già messo in moto dei corsi per genitori proprio su questi temi, no? Corsi per diventare, per alfabetizzarci. Ma che non vuol dire diventare tecnici informatici, vuol dire diventare consapevoli del potere educativo che abbiamo e dove l'educazione in questo momento vuol dire anche questo. Allora, prima della parola faccio la diapositiva. Allora, papà, mamma sul divano, papà col telefono, sto guardando, con il telefonino e poi il bambino col telefonino. Madre, per favore, prova tu a dire a tuo figlio che la smetta di giocare col telefonino. Padre, ok. Gli mando un SMS. Sono è già vecchio, perché adesso gli SMS WhatsApp. Ma sono deliziosi, chi è? È un mio amico che io ho messo in testa e l'ho fatto. Prego. Niente, io volevo dire che adesso qui fa un po' omaggio a tutti. Io gestisco due gruppi Facebook, uno di 5.000 e uno di 15.000 persone. E io mi sono sempre scagliata contro queste cose, quindi nei miei gruppi queste cose, queste foto di bambini, cose così, le ho sempre cacciate fuori, perché secondo me il pericolo è altissimo. Cioè la gente non si rende conto che una volta che ha messa una foto, anche per l'amico che va oltre la privacy, l'amico ha la foto che può mandare oltre. Quindi una volta messa questa foto è fuori controllo. E io sono 3 anni che sto facendo, 4 anni che ho questi due gruppi, naturalmente in uno sono da sola, in altri con le 15.000 siamo vari amministratori e lavoriamo tutti in questo senso. Sono felicissima di essere qui stasera perché voglio prendere materiale proprio per poter andare avanti. Il gruppo piccolo mio lavora in Germania e quello grande invece in Italia. Ecco, quindi io questo. E questo è quello che io credo dobbiamo utilizzare, no? Lavorare da dentro, cioè imparare fuori per poi entrare dentro, fare gruppi dove si dice non fate questo, non dite questo, fate così, perché quella immagine che parlava prima la dottoressa, a me è capitata un giorno, ho litigato con mio figlio e lui si è chiuso in camera, non sapevo più come fargli aprire la porta. Allora cosa ho fatto? WhatsApp, come stai? Rispondo solo su WhatsApp. Bene, apri la porta. Posso? Sì, adesso puoi venire. Però se non c'era WhatsApp, io non entravo in camera. Cioè, voglio dire... No, bene a WhatsApp. No, però... Perché io sapevo se avevo WhatsApp, mio figlio per fortuna dice WhatsApp. Infatti per quello dico dobbiamo valutare le potenzialità e le utilità, no? Io vi dico una cosa a proposito di WhatsApp, che qualche anno fa, sono stati 4-5 anni ormai, eravamo all'inizio, perché WhatsApp non è che abbia così tanti anni, no? 5, 6, 7, e facendo un incontro con i genitori ho detto come facciamo dico ascoltate, utilizziamo anche noi adulti questi strumenti, abbiamo appunto WhatsApp adesso, fate gruppo, non l'avessi mai visto, perché dopo sono venute fuori appunto tutte quelle storie dei gruppi di adulti, di genitori che utilizzano WhatsApp all'interno della scuola facendo molti gruppi, così che sono stati devastanti, perché diventano gruppi di pettegolezzi, di aggressioni verbali, eccetera. Allora bisogna, ecco, diventare consapevoli e responsabili. Posso fare una notazione così su WhatsApp, ma che mi sfuga? Io trovo comunque che stia diventando, come dire, eccessivo e sbagliato WhatsApp quando finisce in mano ai politici. Chiarisco. Non è possibile che Trump mandi un WhatsApp alle 3 di notte, non so perché non dorme la notte, okay, o magari si è alzato per andare in bagno, in cui praticamente cambia gli equilibri del mondo e dichiara guerra, cioè senza, una volta c'era il consiglio, c'era, insomma, si sedeva a un tavolo, c'erano consiglieri politici, adesso dal punto di vista giornalistico, almeno prima si andava, faceva conferenza stampa, si raccoglieva una dichiarazione. Adesso un politico è escluso, insomma, non mi riferisco, non mi riferisco a quello che accade in questi giorni, un politico esce da un colloquio importante, subito già sulle scale, fa la dichiarazione, cioè, ma una volta almeno si trovava col segretario, si riunivano e poi mandavano il comunicato. Questo è diventato una cosa incredibile, qui si dice tutto, il contrario di tutto, ma quando in mano politici che governano le sorti del mondo, io lo trovo inquietante e lì non lo trovo un mezzo è efficace solo per creare scoperto. Prego, lo dovevo dire. Ma io volevo parlare che c'è il rapporto genitori figli, il controllo dei genitori possessivo sui figli, io parlo da genitore di figli magari grandi, per cui mi ritrovo con i figli in giro per il mondo e sono lì che guardo su Instagram se hanno messo qualcosa, era noi andavamo in giro per il mondo soprattutto voi che mi sentivo una volta al mese, se mi telefonavo, mi mandavo la lettera, per cui c'è questa dipendenza che diventa anche, cioè si fa ancora più fatica a lasciare andare questi figli, perché c'è sempre questa possibilità di controllo, no? Che è troppo forte, no? Aspetta che guardo, no? Anche questa è un po', secondo me, una... E poi volevo dire una cosa, parlava della scuola elementare, io sono educatrice di asilo nido, è sicuro che i bambini di un anno e mezzo, due, già sfogliano il cellulare. Sì, sì. E i genitori gli danno il cellulare con il cartone animato, non tutti. Però insomma abbiamo genitori che hanno 25 anni che insomma sono, e si sa che il bambino impara quello che vede. Per cui insomma, secondo me siamo all'inizio di qualcosa che andrà trasformando. Però si modifica anche il cervello, secondo me. Non c'è una mutazione neurologica. C'è una mutazione neurologica. Siamo in un momento storico, credo, proprio di evoluzione. È quello che dicevo. Del parlare, della comunicazione. Cioè... Siamo dentro una rivoluzione culturale che gli antropologi, per esempio, hanno considerato essere pari al tempo in cui è stata scoperta la scrittura. Pensate. Sta a portata a quella. Infatti. Posso agganciarmi un attimo alla signora, perché mi è venuto da ridere l'altro giorno, cioè da ridere, insomma mi ha colpito, c'erano due ragazzi con un passeggino e dentro un bambino che avrà avuto 3-4 mesi, leggermente inclinato, e loro avevano un tablet e via Skype hanno messo il tablet e il bambino di 3 mesi rideva sulla sollecitazione della nonna. Quindi questi 3 mesi cominciano a ridere, non solo le persone, ma anche di vedere quello che sta succedendo. Sì, si stanno abituando a vedere, perché a me è questo. E poi non solo gli autobus, è stato poi nel caso davanti a un video fuori dalle scuole. Io vivo in una zona scolastica, i bambini delle medie una volta li sentivi, li gavano, facevano adesso passi, cioè non hanno neanche modo di scontrarsi con l'altro, di c'era comunque il bull, ci sono comunque, però molti, la maggior parte, sono tutti dentro il loro mondo pur essendo insieme. Certo, questo è appunto anche un altro aspetto, no? Che sta creando quell'isolamento un po' dei... Cioè io, secondo me, come ho cresciuto le mie ragazze, lo immagino come mi ritrovo nelle fasi, no, la televisione fino a... Però creare degli spazi dove il cellulare non ci sia, un riscoprire la vita... Perché diventa una dipendenza, no? Cioè, per cui vedere che posso stare anche senza cellulare in un campo scout dove il cellulare non può essere, dove io non posso telefonare, vengano a mio modo di vedere. Certo, ma vedi che queste sono già idee che permettono di fare delle trasformazioni a livello educativo, no? Dove si consente, ma con dei limiti, ma con delle regole. Alternare, cioè quando parliamo di dipendenza da questi strumenti dobbiamo ricordarci che tutto quello che è piacevole può creare dipendenza. Ora questi strumenti sono piacevoli, ci danno piacere, sono facili, ci permettono proprio di fare tante cose, no? Quindi questo ci fa attaccare all'uso di questi strumenti. Allora, non è peccato mortale, diventa pericoloso, diventa ogni cosa pericolosa quando sostituisce delle altre, quando crea un qualcosa di cui non possiamo fare a meno. Ecco, questa è la dipendenza, no? Allora, l'utilizzo, cominciare prestissimo a far vedere come si usa uno smartphone, come si usa un tablet, non è peccato, anzi deve essere così, solo che regolando l'uso di queste cose con gradualità fino al momento in cui un bambino è in grado di utilizzarlo per un certo tempo. Per un certo tempo al giorno vuol dire A, durante la giornata quando? Deciderà l'adulto quando può utilizzarlo. La sera, a che ora si deve smettere? Perché non è sufficiente, per esempio, dire guarda, alla sera alle 8 dobbiamo spegnerlo. Bene, il bambino lo spegne, se lo porta in camera. Infatti c'è una inchiesta che ha mostrato che i bambini, apparentemente anche i più bravi che vanno a letto presto eccetera, poi stanno fino alle 2 di notte, cioè, la mattina sono stanchi. Questo fenomeno si chiama comunque, a proposito di mutazioni neurologiche del cervello, leggevo qualche mese fa che nei paesi del nord Europa, avendo constatato che i ragazzini hanno una capacità di concentrazione molto bassa su libri, testi eccetera, perché sono abituati a fare ricerche veloci, leggere cose, cioè hanno un'attenzione proprio limitatissima, hanno imposto delle ore in cui loro a scuola devono scrivere con la penna sul quaderno, perché da un punto di vista neurologico la mano che scrive sul quaderno comunica con il cervello e sviluppa una capacità di concentrazione su lunga, come dire, su un periodo più lungo. E siccome di solito arrivano sempre un po' prima queste culture, hanno più attenzione eccetera, io penso che sia una cosa da considerare, cioè come positiva. Assolutamente, quindi l'idea è che tutto serve. E fanno tornare in alcune situazioni i bambini indietro per sviluppare una concentrazione che hanno perso con... Ma chiaro, serve tutto, serve usare appunto questi strumenti, ma serve non perdere l'utilizzo delle altre competenze manuali, no? Per cui la cosa da fare, io credo, è quella di integrare tutti questi nuovi saperi con quelli vecchi. Non è che dobbiamo buttare via tutto, la penna, il caramello, l'abbiamo buttato via, no? Ma comunque la penna, la matita e il foglio, no, certo, però domani sappiamo, dobbiamo essere ben consapevoli, che a scuola si andrà con questo. Ma si andrà sempre di più e smetteremo di vedere questi bambini con addosso chili di zaini stracolmi di... Io so che mio figlio a Merano ha proprio detto di comprare il tablet per andare a scuola, adesso fa l'università, però voglio dire, aveva tablet, questo è... Io sto pensando, però si parla sempre della situazione di regolarizzare. Il problema è entrare in empatia con questo, ma siamo noi che facciamo per esempio WhatsApp, siamo noi che lo utilizziamo e che lo sviluppiamo. Quindi concentriamoci non sul fatto di regolarizzare, ma di strumentalizzarla per il nostro benessere, per il nostro. Quindi è una visione diversa, io ho uno strumento da utilizzare. Questo approccio deve essere più aiutato a sviluppare, perché sviluppa una certa criticità. Io uso un mezzo e questo mezzo è mio, mi appartiene, perché così se noi non entriamo in WhatsApp non ci sono informazioni, lo strumento decade e non c'è più nessuna utilizzazione del sistema. Quindi si deve tornare a priori, no? Regolarizzare cosa significa? Uno strumento che ci viene dato da altri, ma essendo noi partecipi, noi il fulcro di questo sistema, dovremmo elaborare qualcosa per rendercelo più attuabile e più consono ai nostri bisogni. Per esempio, che cosa pensa? Non so, io uso WhatsApp per quello che mi interessa. Infatti io pensavo. E quindi mia figlia usa molto i media, però praticamente non entra in nessun Instagram o roba del genere. E vista. Cioè, usiamo un po' di libertà e di educazione che ci è venuta per affrontare in modo diverso, insomma, il mezzo. Perché mi sembra che lo subiamo anziché aggredirlo e farlo funzionare per noi stessi. Secondo me noi ancora abbiamo questa scienza e coscienza e il problema sono i 2.0 che non hanno la nostra. Posso chiedere una cosa? Mi è capitato ogni tanto di andare a vedere in Instagram appunto queste storie o anche dei filmati, delle canzoni, eccetera. Quello che mi lascia perplesso, pur essendo una grande utilizzatrice sia nel privato che per motivi di lavoro di social di questi sistemi, mi domando però se in questa fase, in questa evoluzione, noi non stiamo anche un po' scadendo, ci stiamo accontentando di messaggi veramente molto così di impatto, ma scadenti. Ecco, ieri mi è capitato, mio marito mi ha fatto vedere una canzone, un video di un ragazzo, un pseudo rapper, non so che cosa, la musica assolutamente insignificante, quasi offensiva perché era monotono così, le parole assolutamente insulse, però delle immagini pazzesche di macchine all'ultimo grido, orologi importanti, eccetera. Viene veicolato secondo me molto con questi social un'immagine così esteriore, sì, no? Di quello, felice, quello vorrei essere, ma non posso. Sì, la Chiara Ragni, come si chiama? Sì, esce che ogni 5 minuti ti fa vedere come sta bene le scarpe rosse. Sì, no, è un problema perché se da una parte questi social ci mettono in condizioni di comunicare in maniera anche facile, anche per lavoro, per WhatsApp, io ho trovato delle soluzioni molto veloci, poco impattanti, magari in momenti di emergenza con i colleghi, però dall'altra effettivamente questo mondo rischia non solo per la pedopornografia o per l'invasione della privacy, anche di così di far scivolare uno scadimento culturale. E anche se ci stiamo poco, ecco, cioè la pasticella si sta abbassando, sì. Questo lo chiedo anche a voi, perché io questo voglio dire perché anche nei gruppi WhatsApp di lavoro e su 40 condivisioni, cioè i messaggi che poi ti perdi di quello, sì, la comunicazione importante, perché tutti sì, va bene, sono d'accordo, sì, poi arriva in ritardo, parla di un'altra cosa, cioè io cerco, non mi raccapezzo più e allora stacco. E gli dico, se c'è qualcosa di importante, mail. È un po', come si può fare? Si possono integrare queste sì. cose? Ma non lo so, certamente quello che dice la dottoressa Teresa è condivisibile, no? Che c'è una perdita anche sul piano linguistico, culturale, no? Forse magari lo vediamo un po' di più se siamo dentro un'atmosfera, un contesto appunto culturale continuo, ma è ormai chiaro che c'è un abbassamento, come dice il governo. Difendersi come si fa? Ognuno deve trovare, secondo me, la sua modalità. Certo, quello che io dico, ognuno può difendersi come vuole. Per i minori dovremmo attrezzarci bene per non lasciarli senza quegli stimoli adeguati, no? Che sono, ad esempio, tanto per citare un tema che proprio oggi trattavo sul giornale, è quello delle emozioni, no? Internet trasmette emozioni forti, no? Quindi adrenalina, per cui i giovani sono molto interessati a seguire questo tipo di comunicazione, anche molto violento, molto forte, perché da scariche di adrenalina. Certamente attraverso internet non passano i sentimenti. altrimenti non passa invece tutto quella emozione più elaborata, più costruita, più fatta di relazioni, di interazioni umane, no? Più appoggiata ad esempio al narrare le cose. Ecco, una di queste cose che dovremmo mantenere in piedi è il narrare, che non può passare attraverso WhatsApp, non può passare attraverso un SMS o YouTube. Eppure dovremmo fare questo sforzo, dovrebbe farlo la famiglia, dovrebbe farlo molto la scuola, dove appunto si narra poco, ma anche a casa si narra pochissimo. Se io mi ritrovo a lavorare con degli adolescenti e li devo curare alle volte, quando chiedo loro: ma che cosa fanno i tuoi? Non lo sanno. Non sanno quando sono nati, che cosa fanno, qual è il lavoro, perché nessuno glielo dice, non perché loro non lo sanno, perché a casa non narrano quello che accade, quello che è accaduto, la storia dei loro genitori. Quindi non portano in evidenza, ad esempio, le fatiche, le difficoltà, i dolori, le sofferenze, le gioie, sono tutte emozioni che non vengono trasmesse. Quindi su questo piano io credo che dovremmo andare a recuperare. Poi ognuno degli adulti si difenderà come può e come vuole, ma per i minori dovremmo fare delle cose. Secondo me queste devono integrarsi con tutte le altre conoscenze che abbiamo, gli altri saperi. Si può dire che queste nuove tecnologie, questi mezzi, vanno in fondo a occupare un vuoto? Guardiamo il vuoto, no? Un vuoto nella famiglia, un vuoto di esperienze interessanti da fare con i figli, un vuoto di relazione, una capacità di stare bene insieme. Cioè, perché in fondo è quando c'è un vuoto che allora lo si riempie in qualche modo, ma se ai bambini e ai ragazzi e agli adolescenti si offre anche un'alternativa valida di occupare il tempo, di relazionarsi, di vivere la realtà così com'è, con anche i suoi problemi, no? Ecco che allora forse hanno meno attrattiva questi modi nuovi, l'avranno sempre, però se non altro potranno essere in una situazione di poter scegliere. Invece tante volte si buttano lì, in questi ambiti, perché non hanno alternative, non sanno che si potrebbe anche vivere diversamente, relazionarsi diversamente. Sì, può essere, in effetti anni fa, forse più di una decina di anni fa, si parlava di difficoltà di comunicazione, non che adesso non se ne parli, no? Ma all'interno delle relazioni familiari c'era l'incomunicabilità, no? Non si comunicava. Può darsi, come dice lei, che questo abbia riempito questi vuoti, sicuramente lo ha fatto, però non dobbiamo pensare che è stato per questo che si è sviluppata la tecnologia. La tecnologia si è sviluppata perché il mondo va avanti. Quando abbiamo inventato l'automobile siamo entrati, andiamo a vedere la storia, tutti sono entrati in crisi perché dovevano rinunciare al cavallo e prendere un mezzo meccanico, ed era una cosa preoccupante, no? Per cui è chiaro, tutte le cose che cambiano, che si trasformano, ci portano di fronte a strumenti, a orizzonti diversi, ci spaventano e quindi e da una parte e dall'altra ci attrae, ci entusiasmano. Bisogna riuscire a governare questi cambiamenti, no? È chiaro, in questo momento l'attenzione all'altro sta diminuendo enormemente, l'interazione empatica non ne parliamo, no? Perché è uno degli aspetti più preoccupanti, è questo: non riusciamo più a percepire l'altro nelle sue manifestazioni, a sentire quello che sente, non riusciamo più a vivere la relazione a livello empatico, no? E i minori, i bambini, gli adolescenti sono le vittime più, quelle che preoccupano di più, no? Anche gli adulti, logicamente, se non hanno questa. E lì dobbiamo, secondo me, fare una riflessione. Quanto è possibile invece ancora andare a recuperare? Secondo me è possibilissimo. Basta che cominciamo a fare un lavoro precoce di integrazione, io dico, dei saperi, di comportamenti, di relazioni. Non dobbiamo buttare via niente, dobbiamo integrare quello che forse una volta si faceva, dove c'era una comunità che ti permetteva di interagire, e però questa comunità di oggi c'è ancora, deve utilizzare strumenti diversi, secondo me. Questo è il punto. È una cosa difficile, non è semplicissima, però è quello che dovremmo fare, altrimenti sì, il rischio è quello che questi strumenti ci coprono dei vuoti. E voi sapete che una delle questioni più preoccupanti è, per esempio, quello dell'isolamento sociale dei giovani. Il fenomeno è in forte crescita e quello è patologia. Pensate al fenomeno che viene dal Giappone, i hikikomori, no? Che è chiusi in una stanza. Chiusi in una stanza, certo. Poi hanno paura, poi riescono ad uscire. L'elemento grosso è quello della paura. Ci si ritira perché il mondo fa paura. Comunque si ha la sensazione, stando in questo mondo virtuale. E io mi avvierei verso la chiusura, volevo solo consegnarvi un pensiero che non c'entra niente, ma la mia mente è ancora per dire. Tanto prima citare l'invenzione dell'automobile, io ho pensato all'invenzione per fare tutte le grandi invenzioni che hanno segnato l'umanità, però non si è persa la letteratura. Allora, e lo dico perché siamo in una biblioteca, certo. Perché appartengo a una generazione che ha i libri, e quindi io direi, cerchiamo di non perdere in questo processo di tenere i vari piani, eccetera, eccetera. E mettiamoci anche un piccolo puntino per dire, e non perdiamo la letteratura. Assolutamente. Non facciamo, insegniamo ai ragazzi. Quello che dicevo prima, quanto la scuola deve fare per mantenere